Radio 24 Reportage. Calano gli sbarchi. Missione compiuta o i migranti hanno cambiato rotte? Di Valentina Furlanetto. Per la prima volta io, e mi assumo la responsabilità di dire io, punto e basta, non voglio che altri, incomincio a vedere la luce alla fine del tunnel. Missione compiuta. Il ministro dell'Interno Minniti, 9 mesi dopo essere stato nominato e 7 mesi dopo aver stretto un accordo con il premier libico al-Sarraj, può dire di aver incassato un calo considerevole nel numero di persone che sbarcano in Italia. Dall'inizio dell'anno fino a ieri, secondo i dati del Viminale, sono arrivati in Italia 110.304 migranti, il 21% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016. E tuttavia, per non finire come il presidente americano George Bush, che nel 2003 sulla portaerei Lincoln annunciava la fine delle operazioni militari in Iraq, che poi invece sarebbero durate anni, bisognerà capire se davvero si tratta di un'inversione di tendenza o solo di una pausa, se le partenze diminuiscono anche lungo la tratta, oppure sono bloccati tutti nei centri di detenzione in Libia, o ancora se semplicemente prendono altre rotte. E a che prezzo i flussi migratori dalla Libia all'Italia sono stati fermati? La Farnesina e il Viminale smentiscono seccamente il pagamento di 5 milioni di dollari dai nostri servizi alle milizie libiche, cosa che però è stata ribadita anche ieri da un'inchiesta delle Monde. Un calo c'è stato, ma perché si fermano in Libia oppure già nei 400 chilometri di deserto che rappresentano la porta attraverso la quale i migranti salgono dai paesi africani e arrivano in Libia? Da Gadez, in Niger, parla Giuseppe Loprete, capo missione in Niger dell'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Dall'agosto-settembre 2016 che i flussi stanno diminuendo anche di molto, tipo dai 72.000 al mese di maggio, aprile-maggio 2016, ai 10-12.000 della fine dell'anno, sempre 2016. Adesso negli ultimi rapporti, negli ultimi 2 mesi siamo sempre sui 7.000 o 8.000 massimo al mese. I flussi sono decisamente diminuiti con tutte le precauzioni del caso, cioè nel leggere questi dati, perché è vero che si cercano sempre delle rotte alternative, non c'è nessun dubbio che i flussi siano comunque diminuiti anche se ci sono un po' queste alternative o questi aggiustamenti, e questo noi lo vediamo anche da un numero che purtroppo non esiste, però noi lo vediamo di persona, cioè il numero di quante persone sono ad Agadez in questi ghetti da cui passano tutti per poi andare in Algeria, laddove vedevamo 100-200 persone in una casa con un cortile, questo è il ghetto, adesso ci sono 20 persone, 30, 50, sono dei commercianti che sono andati via da certi villaggi perché hanno detto non passa più nessuno, quindi... Sulle nuove rotte, l'Algeria, tu dicevi che è un punto di partenza che viene sempre più considerato. Sì, l'Algeria c'è una rotta storica, diciamo storica, e anche negli ultimi anni che è stata utilizzata moltissimo, che riguarda soprattutto le donne e anche i bambini che finiscono poi, quindi tratta di esseri umani, finiscono poi nella prostituzione, finiscono nell'accattonaggio, nella mendicità, nelle strade dell'Algeria. Molto probabilmente una parte di questi poi continua verso la Libia o il Marocco e poi oltre. Abbiamo visto qualche settimana fa anche che dalla Spagna hanno registrato per la prima volta insomma più arrivi dalla loro parte, che è comunque legato a queste rotte. Quindi ed è una rotta che si sta intensificando? si sta un po' intensificando, non siamo ai livelli di, della Libia oppure dopo appunto di Lampedusa, siamo ancora molto meno, però abbiamo visto una sorta di, appunto, chi, quando la Libia è diventata più difficile, tanti hanno, cercano di andare, anche perché costa un po' di meno, eccetera, cercano di andare dal, in Algeria, si parte comunque dal Gadese, quindi dipende dai contatti che hanno lì. C'è da dire che l'Algeria non è un paese così facile da attraversare e l'Algeria stessa espelle. Passare il confine con l'Algeria non è come passare il confine con la Libia e negli ultimi, solo negli ultimi due anni quasi 20.000 persone sono state rimandate indietro, quindi c'è numeri importanti ed è una grossa parte di quelli che sono su questa rotta comunque ha come obiettivo di rimanere in Algeria. Quei migranti che continuano ad arrivare nel nostro paese partono quindi dall'Algeria, ma anche dalla Tunisia. In Tunisia i vecchi passeur, pionieri dei viaggi nel Mediterraneo, hanno ripreso a fare affari su una rotta più breve, conosciuta e meno sicura, quella che da Zarzis porta sulle spiagge dell'Agrigentino. Qualcuno viene intercettato, come tre giorni fa, quando cinque scafisti sono stati arrestati dopo uno sbarco a Mazara del Vallo. Anche in Sardegna sono aumentati gli sbarchi. Negli ultimi giorni di agosto l'isola ha visto 8 sbarchi in 36 ore, l'ultimo a Portopino. Un'altra rotta in crescita è quella gestita dagli scafisti ucraini, che utilizzano barche a vela per portare migranti nella Calabria ionica in Salento. Per lo più di nazionalità siriana, irachena o afghana, viaggi che costano anche 7.500 dollari a persona. C'è infine il corridoio rumeno. La chiusura della rotta balcanica ha spinto i migranti da Siria, Iraq e Afghanistan a cercare questa via alternativa. Ogni settimana piccole barche di pescatori partono dalla Turchia, attraversano il Mar Nero e arrivano al porto romeno di Costanza, da dove poi proseguono per il Kosovo e da qui in Albania e poi in Italia sulla rotta adriatica. Anche Frontex ha registrato un aumento del flusso sulla rotta spagnola. Sentiamo la portavoce Isabella Cooper. Well, there has been a significant increase in the arrivals in Spain. C'è stato, dice, un significativo aumento degli arrivi in Spagna. 13.000 arrivi nei primi 8 mesi del 2017, il 30% in più dell'anno scorso. In particolare quest'estate si è triplicato il numero degli sbarchi, 2/3 per mare e 1/3 con il ritorno degli assalti al muro dell'enclave spagnola di Ceuta in Marocco. Dopo l'Italia, dice Cooper, la Spagna si piazza quindi al secondo posto nella classifica degli arrivi, superando la Grecia. Sono dati significativi, non in termini assoluti, perché i numeri assoluti sono ancora relativamente piccoli, ma rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La partita sulla scacchiera libica intanto è molto più grande dell'intesa sui flussi migratori e passa anche attraverso gli accordi economici di ricostruzione della Libia. I 12 sindaci delle città meridionali della Libia, che hanno stretto un accordo col ministro Minniti, hanno stilato un prospetto dei progetti che vorrebbero realizzati nelle loro città. Il ministro Minniti ha trasferito questo prospetto alla presidenza di turno dell'Unione Europea e al commissario Avramopoulos. Riterrei utile, scrive Minniti, che queste proposte vengano esaminate dalla Commissione, dagli Stati e finanziate. Si parla di strade, infrastrutture, costruzione di scuole e ospedali, ma anche di un grande centro equestre a Misurata, di un albergo, un'industria tessile a Al-Suaref e di un centro di accoglienza a Bani Walid per ben 17.000 persone. Un'opportunità per le aziende italiane? È scettico il presidente della Camera di Commercio Italo-Libica Gianfranco Damiano. Noi che finanziamo la Guardia Costiera Libica sono anni che forniamo anche dai tempi di Gheddafi, motovedette, istruzioni, formazione, eccetera. Non è niente di nuovo, diciamo. E nonostante questo, lei dice, non era cambiato nulla, quindi è inutile anche adesso. Però gli sbarchi effettivamente sono calati moltissimo. Sì, sono calati perché le milizie non sono delle brigate che non scherzano. Ma sono calate perché le milizie fanno barriera, sono pagate e fanno barriera. Non possiamo continuare a finanziare chi fino a ieri ha portato traffico di esseri umani, chi fino a ieri ha venduto armi, droga, eccetera. E quando si parla di centri di accoglienza in Libia, io eviterei questo eufemismo, direi campi di concentramento in Libia. Questo si sta realizzando. Si è parlato anche di un pagamento di 5 milioni di dollari da parte dei servizi italiani alle milizie. Dalle notizie raccolte sembra che la milizia, la famosa milizia 48 che si muove su Sabrata, non penso che ci sia stata questa virata improvvisa da chi erano gli agenti di viaggio dei migranti, sono diventati la polizia di frontiera che stoppa. Quindi qualcosa deve essere successo. Certo, non sappiamo cosa, non sappiamo come. Per la prima volta io, e mi assumo la responsabilità di dire io, punto e basta, non voglio che altri, incomincio a vedere la luce alla fine del tunnel. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.